Allora, allora. Vai, vai, vai. Buonasera con tutti. Clandestino, cheat. Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. Annuncio vobis, gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Porte casuno con usta e marreta, una cuppulella che vi si era alzata, passa scampaniando una pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, fai sorte per camel, chi te li dà la borsetta di mamma. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan. Tuo fa l'americano, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano, tuo fa l'americano. Buonasera, buonasera, benvenuti a questa 11ª puntata di Clandestino Cid. Oggi 18/3/2013, 22:27, spaccando sempre un minuto con il ritardo dovuto questa volta a forze maggiori. Niente, andiamo a salutare gli ospiti di stasera. Dalla mia destra abbiamo un ospite graditissimo, direttamente dall'Ecuador. Dall'Ecuador. Mi chiamo Camilo, sono da Ecuador, la mia città è Riobamba. Stiamo con due ragazzi qua in questo programma controverso. C'è. Clandestino, non controverso, va bene, è lo stesso. Iniziamo con il primo pezzo della serata. Il primo pezzo mandiamo Mannarino Ciccio. Andiamo a Mannarino. Quando io sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè.

Quindi hai trovato proprio il calore umano giusto. Prima parlavamo tipo delle differenze tra la popolazione del nord e quella del sud, quindi hai quasi paragonato i calabresi a un popolo latino. Sì, sono più simile al popolo del nostro paese, della nostra regione, che è Latino America. Sono più solitario e mi sento tranquillo perché è un'esperienza nuova stare qui studiando. Mi sento tranquillo di stare con buoni amici che conosco e è una bella esperienza perché, come dire, nel nord il popolo è un po' freddo, un po' distante, però nel sud sempre con le braccia aperte. Beh, quindi diciamo che a primo impatto le impressioni sono positive. E per quanto riguarda invece la didattica, cioè a livello universitario, trovate differenze nel modo di intraprendere lo studio dall'Ecuador qui in Italia oppure è simile? È quasi simile in alcuni aspetti, però in altri sono più differenti perché noi nella popolazione studentile del mio paese, per esempio, l'insegnamento è più pratico e invece guardo qua si spiega migliore la teoria, che è più importante, però sempre deve stare accompagnata della parte pratica, che rinforza questa conoscenza della scienza, in questo caso in tutto lo che è ingegneria, in tutto lo che è scienza esatta, che è sempre più importante conoscere altre cose. Quindi sostanzialmente troppa pratica e troppa grammatica e poca pratica. È il problema che denuncia anche Peppone, spesso quello della della grammatica non accompagnata alla pratica, no? No, questo è falso, ci non ho mai denunciato questa cosa qui della più pratica rispetto alla grammatica. Stasera abbiamo anche le note di accompagnamento in sottofondo, se sentono, c'è il gruppo che dopo parteciperà a intervista all'artista. Stasera sono gli Strade Statali 107 bis, qui c'è il vocalist Gustavo con noi. Ok, e io direi di ascoltare un pezzo che ha portato Camillo direttamente dalla sua terra, se vuoi ce lo puoi introdurre. Sì, questa canzone si chiama Amilinda Ecuador e questa è una canzone con alcuni suoni di strumenti andini, che è più importante perché riflessa un po' la nostra identità, la nostra idiosincrasia di essere ecuadoriano. A continuazione, Amilinda Ecuador. Yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día tu hijo. Ese amor que tienes aquí y te hará regresar al Ecuador. amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí y te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador. Che bel pezzo, ragazzi, proprio passionale. Questa chitarra si chiama un strumento andino, si chiama charango. Charango è quello che si ascolta la zampogna e la quena, sono tre strumenti andini che si ascolta in questa canzone. Ci vuoi parlare adesso della tua terra? Prima parlavamo, non lo so, mi facevi l'esempio delle montagne altissime, 6.000 metri, mi dicevi. Sì, la montagna più alta del nostro paese, dell'Ecuador, si chiama Chimborazo, sta sopra lo 6.310 metri sopra il livello del mare, il punto più vicino al sole, in comparazione all'Everest, perché... si mide la distanza dal centro della Terra al poli. Come l'Ecuador sta in latitudine zero, si trova più vicino al Sole in questo caso. Ma è un vulcano? È un vulcano potenzialmente attivo. È un vulcano potenzialmente attivo, anche in questo momento sta con attività geotermale, no, non c'è attività fumarolica o attività di esplosione. Vogliamo parlare adesso del parco del Yasuní. Questo parco è uno dei principali referenti del nostro paese, è il punto di maggiore biodiversità del mondo. Questa zona c'è molta biodiversità, e soprattutto in specie di foresta, in specie di fauna. In quasi una ettaria di bosco del Yasuní si trova, come dire, un punto di comparazione quasi tutte le specie che esistono in quasi tutta l'Amazzonia. L'Amazzonia è un punto più diverso e più bello a conoscere. Qui leggevamo un articolo, praticamente Ecuador SOS nel parco Yasuní, per il fatto che comunque vogliono costruire gli impianti petroliferi. Sì, questo è una delle situazioni più problematiche nel nostro paese, perché esiste molta esplotazione petrolifera vicino a questo parco, e in questo momento esiste un progetto ambientale che si trova in questo momento in una situazione di almacenamento, di conservazione da questa foresta. E non esplotazione petrolifera, e per un rubro economico che l'Stato in questo momento sta offertando per il mondo intero. E tipo con le energie rinnovabili c'è il processo, comunque, non lo so, dell'eolico, sta andando tanto? In questo momento non molto, però poco a poco si guarda alcuni progetti che stanno in offerta, in processo di licitazione per implementazione, per esempio parco eolico alcuni studi geotermiche, perché nostra cordiglia si trova alcuni vulcani che sono più importanti e stanno in processo eruttivo. E con il processo di deforestazione, tipo, noi avevamo intervistato una ragazza del Guatemala, Ivi, che salutiamo, praticamente ci parlava del processo di deforestazione dovuto ai contrabbandieri di droga per improvvisare delle piste d'atterraggio degli aerei. C'è anche in Ecuador lo stesso problema? In questo momento esiste il problema per ottenere per esempio il legno, per esplotazione, per costruzione di alcuni mobiliario, per tavoli. Quello legno è più fino, è più importante. Questo legno sta in processo di esplotazione, però questa zona è più diversa e più importante conservarla perché, come ho detto prima, esiste una alta biodiversità in questa regione. Ok, direi di passare al prossimo pezzo, il nostro ospite che giustamente ci introduce. Questa canzone si chiama Verde Manzana ed è di Ricardo Williams, un cantautore ecuatoriano. Aspetto che li piacciono. Verde como una manzana, dulce país de maíz y naranjas. Sé de un país de palmeras y montañas, dulce país que sabe a coco y a caña. Te llevo, te siento, te amo, te quiero. Voy a cuidarte por tu agua y tu siempre bien, siempre alegre, siempre verde, sonreír y Verde in italiano. Da non confondere con il programma su Canale 5, Mela Verde alla domenica. Dov'è? Non lo conosco io questo programma, Cicci, scusami. C'è quella ragazza svedese, bionda, che vanno in giro per l'Italia. Come si chiama? Molto gnocca. Molto gnocca, Cicci. Salutiamo i ragazzi del server e direi anche di salutare il nuovo staff di Clandestino Cheat, perché comunque passa il tempo e noi ci ingrandiamo. Comunque abbiamo formato anche uno staff esterno e noi questa sera qui in studio abbiamo Carmela, che se vuole un ciao nemmeno, è timida. Paolino che è malato, che sta male. E Cicillo e Marina, lo staff esterno di Clandestino Cid, come potete vedere. Sì, salutiamo Paolo, il ragazzo del server che è malato questa sera, è a casa, non sta tanto bene, però le condizioni mediche si stanno stabilizzando, diciamo, piano piano, a confronto di stamattina, diciamo, comunque di stare tranquilli. No, parlavamo dello staff esterno perché molto caloroso, molto vicino al pubblico, anche lo stesso Camillo è arrivato qui per grazie al nostro staff esterno, quindi ringraziamo. Muchas gracias. Muchas gracias in spagnolo. Camillo, vogliamo parlare un po' di argomenti riguardanti l'economia del tuo paese? Si sente la crisi in Ecuador, questa crisi che sta attanagliando le persone, questo terrorismo psicologico che arriva, la crisi che non si può più vivere? In questo momento si è visto che la crisi si è ridotta un po' in nostro paese, in Latino America in generale. Non esiste come un impatto tanto forte come qua, come Europa. Esiste un lavoro, esiste alcune professioni dove si trova migliore, alcune dove si trovano migliore, però sempre nel nostro paese esiste un relativo calma in comparazione all'Europa in questo momento della crisi. Tu che vieni da fuori, cioè si percepisce già sta cosa appena arrivati in Italia, cioè l'aria della crisi proprio? Sì, ho visto che esiste molta disoccupazione dei giovani. Non c'è molto lavoro per i giovani, o esiste un lavoro dei giovani però con bassa remunerazione. Non si trova un lavoro, per esempio, nella sua area di laurea, per esempio, si riduce molta competitività. E quello non lo so per quale sono i problemi da qua, però aspetto che la situazione migliore qua in Italia. E mettendo per assurdo che tu non conosca la situazione, diciamo, politica, cioè tu arrivi qua 6 mesi fa, comunque non conosci, per assurdo, non so se la conosci o no, non conosci la situazione politica, a cosa attribuiresti questa crisi, questa mancanza di lavoro? Cioè proprio a pelle tua, da quello che osservi anche qui nell'ambiente universitario. Per esempio qua osservo, si guarda per esempio alcune situazioni, per esempio dei giovani che devi uscire a altri luoghi dall'Italia, per esempio al nord, dove si trova per esempio una maggiore produzione, una maggiore industrializzazione che qui nella regione sud. Nella regione sud ho visto che non esiste molte fonti di lavoro per il deficit di impresa, di industrie che può occupare tutte le giovani dall'università, per esempio, come un piano pilota che si trova come una fonte di ingressi per l'università, con una industria propria dell'università, con voi come studenti, come professionali, giovani. Si può lograre alcune cose. Bene, piacevole sentire comunque consigli magari per un futuro migliore. Peppe, tu per un futuro migliore? Io per un futuro migliore manderei un altro pezzo, Ciccio. Mi sembra necessario. Manderei un pezzo di un artista emergente che abbiamo ospitato qualche puntata fa. Il pezzo di Flavia Lisotti che si chiama Sarcastica. Nuvola di vento per scappare di un po' più contento, non senza le solite premesse. Che confusione, non è colpa tua, è colpa mia. Devo andare via, devo ritrovare un po' me stesso. Anche fosse un'altra, chi lo sa, fatto sta che certamente me ne pentirò. Già lo so che come te non c'è nessuno al mondo. Non sono pronto, no, a dare tutto a te, che sei fantastica e magica, lodevole, geniale, intelligente come poche. E poi sarcastica a te che sei. Ma è stupida, simpatica, sai sempre cosa fare, poi sei splendida. Sì, forse l'unica. Onesto con te stesso, me ne frega niente se mi dici che ti andava stretto. Ogni mio pensiero, ogni discussione, le mie paranoie, qualche distrazione. Dimenticavo qualche compleanno, qualche ritardo, ti irritava ogni tanto. Il mio essere incapace di capire il benedetto fuori gioco e quei silenzi esasperati e disinnamorati quando mi guardavi. So che sono un po' nevrotica, instabile, stabilmente fragile, bisbetica, sarcastica, convinta e poi collerica, gelosa di ogni forma intelligente, non di vita femminile, con cui puoi avere a che fare, impertinente e scostante. Non so cucinare, parlo con la gente, non mi piace deludere le aspettative, ma le tue mi stanno strette, strapotente. Ma lo sai che sei bugiardo e pretenzioso, non mi dici non ti amo e te ne vai, vai, vai. Bugiardo e disonesto, te lo giuro, non te lo direi mai, mai, mai. Nevrotica, instabile, stabilmente fragile, innamorata, stupida di te. Innamorata, stupida di te. Innamorata, stupida di te. Naturalmente salutiamo Flavia e ricordiamo che anche noi ti vogliamo tanto bene e che Clandestino Cid non è meno a nessun'altra radio, anzi Fuori Onda Radio non è meno a nessun'altra radio. Non diciamo che siamo una radio di serie A, perché non mi piace comunque fare distinzione di serie A. Sì, vabbè, questo sì, Gustavo. Però no, il fatto è che le radio esterne hanno dichiarato guerra a Clandestino Cid. E quindi noi abbracciamo la battaglia e la combattiamo, Pep. Che tipo di battaglia hanno lanciato queste radio, Ciccio? Ma infangono il nome di Fuori Onda Radio, insomma, per quanto riguarda... Diciamo che cercano di acchiappare il pubblico di Fuori Onda Radio, noi manteniamo dura la posizione. Fanno gli infami, quindi, Ciccio. Beppe, se me lo dici con questo sguardo languido. Appostissimo. Adesso parto un altro pezzo. Magari se Peppe mi mette una sigletta di sotto un po' più romantica. No, il pezzo è a te di Jovanotti e Luigi lo dedica alla sua ragazza Serena. Buona serata. A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo coi pugni chiusi,

Tu, Camillo, come vedi il problema delle droghe leggere? Cioè, adesso in Italia, dopo la fine di Giovanardi, non esiste più il concetto di droga leggera, droga pesante, sono tutte droghe. Però, tipo, sei favorevole alla liberalizzazione della marijuana oppure ti discosti dal... Basta un esempio, il tabacco, sigaretta. Quello dobbiamo guardare, dobbiamo guardare la storia di questa legalizzazione in molti paesi e c'è alcune risposte. E noi rassicuriamo tutti i consumatori di cannabis indica che praticamente oltre all'Olanda lo spinello elettronico sarà reperibile anche sul mercato spagnolo, portoghese e svizzero. Speriamo pure in Ecuador, perché in Italia comunque è impossibile. No, vabbè, in Italia c'è il mercato, dobbiamo alimentare il mercato nero, le mafie. Noi abbiamo un obiettivo. C'è una grande azienda da alimentare, quindi dobbiamo portare avanti. No, non esiste lo che è la, come dire, la coltivazione di cannabis. In alcune regioni, per esempio nella frontiera con Colombia, si guarda lo che è il coltivo della foglia di coca. Però è un problema un po' di Colombia che tutto il mondo conosce. Vabbè, alla fine la foglia di coca veniva utilizzata anche dalle popolazioni indigene, cioè per la stanchezza, diciamo. Sì, per il male dell'altura, si chiama un trastorno metabolico che si produce quando una persona che viene del livello del mare alla montagna si consume per esempio un tè di foglie di coca. Quello è più buono e medicinale. Forse c'è una nostra amica che è appassionata a tè di sana, qualche volta magari provere sicuramente a fare qualcos'altro. Noi passiamo al prossimo pezzo che è di Alborosi ed è Real Story che dedichiamo a Salvatore Ben. One tell the boy, the chopper drop down long time. And we run the thing now, Sicilian style. This woman say, oi. Well, Mr. Natty, dreadlocks, tell me where you come from. Come poop on Schengen and I tell you where you belong, yeah. Mr. Ballet, tell me where you come from. Come poop on Schengen and I tell you, ah. And so me jungle it in the west. Poop on gold medal in a ganja contest. Pretty boy, the land, cause Jamaica under stress. Me smuggle marijuana in a bulletproof vest. Well, enough of them a pro, them a the real herbalist. Life never took good look on the stars on them race. Enough time them a fi pack up big nine and ratchet. Enough time you see them smiling cold in a casket. So me got the ganja farmer where them lose their life. Me bun the little dealer charging double the price. Me bun the FBI a play the cat on mice. But this a real story, not Miami Vice. Billy Bam Bam, Billy Bam Bam, Billy Bam Bam. Billy Bam Bam, Billy Bam Bam, Billy Bam Bam. Billy Bam Bam, Billy Bam Bam, Billy Bam Bam. Billy Bam Bam, Billy Bam Bam, Billy Bam Bam. Billy Bam Bam, Billy Bam Bam, Billy Bam Bam. Billy Bam Bam, Billy Bam Bam, Billy Bam Bam. Cycle song global international, step up in a life. Tell them to circle on the circle. Man, I will my cockle from you, put me on the shuffle. Circle, son, idiot thing, in on a long talk. Brrr. From the hills of Jamaica straight to Amsterdam. From Sensei to Kingston, down to Switzerland. 300 pound of starch flight to Gatwick, England. Jamaica green gold, sweet to European. Salomon herb, give me my Salomon herb. Let me light me spliff and please do not disturb. Salomon herb, give me my Salomon herb. Let me light me spliff and please do not disturb. La linea è denunciamo un furto clamoroso in Turchia, rubato ponte da 22 tonnellate. Secondo quanto riporta la stampa turca, praticamente è stato rubato un ponte di 22 tonnellate di peso e lungo 25 metri che permetteva di superare il torrente che attraversava un villaggio. Praticamente no, il ponte non era in legno perché è stato smontato, era in ferro. Secondo la polizia l'avrebbero fatto a pezzi mentre gli abitanti dormivano e caricato su un camion per portarlo via e rivenderlo. Secondo me, Peppe, i pezzi verranno riutilizzati per quello di Messina, no? Visto che ormai i fondi scarseggiano, magari. Comunque, un furto che ha dell'incredibile. Sì, è assurdo che si rubino un ponte durante, che si rubino un ponte durante la notte. Mi ricorda una cosa all'italiana, diciamo. Qui in Italia succedono queste cose. In Turchia hanno imparato anche loro, cioè, in Turchia. Stile Napoli, diciamo. Niente. Va bene, ricordiamo la morte di Clive Barr, il primo batterista degli Iron Maiden. E naturalmente il nostro pensiero non può andare anche agli Iron Maiden. E adesso passiamo alla rubrica Animals. Allora, denunciamo innanzitutto i 12.000 carcasse di maiali nel fiume di Shanghai per la nuova patologia di circovirus porcino. Noi di Clandestino Cid rinnoviamo la nostra campagna Save the Pig, anche questa volta per la Cina. Purtroppo, Peppe, sono tantissime, oltre 7.545, ora sono 12.000 le carcasse di maiali recuperate nel fiume di Shanghai. Quanto spreco, chissà quanto soprassate, quanto salsicce potevano fare con questi maiali. Ricordiamo che qui sono l'altra parte di clandestina, quella a favore del maiale, quindi qui c'è una disputa interna sul salvare o non salvare il maiale. Quando il maiale quando è allevato in casa è trattato bene, poi sono favorevole, ma quando viene allevato in allevamenti di massa, dove vengono maltrattati e trattati male, no. Quindi in quel caso save the pig, quello paesano invece no. Diciamo save the pig in parte. In Ecuador fate uso di carne suina? Si usa molto per la tradizione culinaria e gastronomica del nostro paese, si mangia molto lo che è un maiale al forno, quello è un piatto tipico del nostro paese, no, maiale più grande, si chiama ornado, ornado, si mangia con mais, però un mais proprio della nostra terra che si chiama il mote. Mote si conosce il nome, con lattuga, con pomodoro e con chicha. La chicha è una bevuta fermentata da mais, senza alcol, è un po' fermentata, però la quantità di alcol è più bassa e si accompagna con questo piatto, è una tradizione culinaria del nostro paese. Diciamo una big porchetta, qualcosa in grande. Ma da voi tipo si usa tipo tradizionalmente in Calabria il maiale è il cibo del popolo, no? Anticamente veniva consumata, no? La carne di maiale, anzi ci sono state proprio famiglie che sono arricchite grazie al maiale perché lo vendevano ai ceti più bassi del popolo, perché comunque non avevano i fondi per cibarsi d'altro. In Ecuador, prima la conquista spagnola, l'alimentazione, la dieta del popolo, in questo caso ecuadoriano, era in base a graminazias. La graminazia, per esempio, alla quinoa. Quinoa è un cereale più buono, più di un contenuto di proteina più alto, migliore che la carne propriamente. È migliore, molto migliore. Si mangia per esempio il porcinillo di India che conosco qui. Si mangia però in piccola quantità e con altri grani andini, per esempio un lupinus, una varietà propria delle Andi, di lupinus, si mangia molto. E altre, per esempio, altri grani che sono proprio del nostro paese. E un giorno con Peppe arriveremo anche in Ecuador. Faremo la messa in onda ecuadoriana. Adesso ci spostiamo in Giappone. In Giappone, perché comunque la situazione dei panda si fa sempre più terribile. Il panda, un animale in via di estinzione. Prima ne parlavamo, e qui in, cioè non è che ne parlavamo, è uscito fuori anche il discorso del porno. E il porno non vale soltanto per l'uomo, il porno vale anche per il panda, perché praticamente gli animali allevati in cattività e nati in cattività non sanno più fogliar. Purtroppo, poverini, sì. Quindi cosa accade? Accade che per l'accoppiamento vengono trasmessi nelle gabbie dei film porno, così l'animale comunque prende esempio dagli altri. Peppe. Ci sempre con notizie abbastanza particolari, non so dove le trovi, chi è il tuo informatore? Sarà il nostro indignato speciale da Roma? Sarà, salutiamolo intanto, il nostro amico Tarlo. Sarà la qui presente donna X? Non lo sappiamo. Secondo me ho qualche sito strano, cioè, non lo so. Ah, sulla Repubblica? Vabbè, non è un sito strano. La Repubblica pubblica anche queste notizie particolari. Mi fa piacere che non si parla solo del Movimento 5 Stelle e del Papa. Ci sono anche notizie più serie, come questa del panda che si accoppia. Porno panda. Tipo Ranma, te lo vedevi Ranma tu, Cicci? C'era il panda, c'era qualcosa di porno pure là. Quindi, cari ascoltatori, Peppe predige i porno giapponesi. Mandiamo il prossimo pezzo, Peppe, dai. Mandiamo un pezzo che dedichiamo al nostro Rino, ricordando l'evento della settimana, il compleanno, venerdì, al teatro, come ricordava Rino, di ricordarlo. Chiunque voleste venire, basta che dice che ha ascoltato Clandestino Cid lunedì sera e ripete questo codice 324, può entrare, se no gli altri non possono entrare. Quindi mandiamo il pezzo delle Zeppelin per Valterino. Walter Swalk. Oh, dopo questo pezzo dedicato al nostro Rino, ritorniamo in studio qui sempre su fuoriandradio.altervista.org. C'è una domanda del pubblico, ci chiedevano se il panda era una 4x4, Ciccio. Tu cosa rispondi a questa domanda? Una 1100, benzina, fire. Una panda Sisley 4x4, come dice il ragazzo del server qui. E niente, possiamo continuare. Salutiamo Lazar che ci mandava delle informazioni sulla chat. E continuiamo con la nostra trasmissione, Ciccio. Andiamo avanti? Vai. Sì, andiamo avanti e facciamo un breve stacco musicale perché ricordiamo la nascita di Sofia, oggi la nipotina del ragazzo del server che oggi compie 3 anni. Due, scusate. E a lei dedichiamo un pezzo della Carrà, Ballo Ballo, perché è la canzone preferita della bimba. Io sono qui con un pizzico di nostalgia, che magia, e mi sento ancora a casa mia. Ricordiamo anche la nascita di Ninterez Briana, la bambina di Amede del Burundi. Tanti auguri, Amede. Adesso salutiamo il nostro ospite dell'Ecuador, Camillo. È stato veramente un piacere averti qui in radio con noi. Speriamo ci sia anche una seconda, terza, quarta volta. Anche a me ha fatto un piacere. Ha fatto un piacere con tutti per questa apertura in la radio e aspettiamo un'altra volta di parlare di alcun altro tema che sia interessante per noi. Un un saluto a Camillo e speriamo di vederci in giro e vederci, di risentirci in radio pure. Ciao. Ok, adesso partiamo con la nostra rubrica intervista all'artista, e questa sera direttamente dalla città di Santa Saverina. La città di Santa Saverina, abbiamo la strada statale 107 bis. Applausi, Pep. E qui con noi abbiamo il frontman della band. Buonasera, Gustavo. Salve. Allora, ci introduci questo progetto? Cioè, possiamo considerare tale o qualcosa di più? Certo, l'ultimo lavoro che abbiamo fatto è stato lavorare ad un video che poi è stato utilizzato in Giappone per i Panda. No, a parte scherzi, volevo capire insieme al resto, ma il porno dei Panda è un porno umano o un porno animale? Nel senso che i Panda si eccitano guardando gli esseri umani che fanno sesso, oppure? No, sono tra animali, sesso tra animali. Quindi proprio fanno le scritture, le cose per i Panda. E che è difficile, cioè gli addestratori avranno del lavoro da svolgere, insomma. E niente, e quindi oltre alle nostre inclinazioni cinematografiche, diciamo così, come abbiamo detto prima, è stata la 107 bis, un gruppo di squazzacani come migliaia che si aggirano tra pub, piazze, eccetera, eccetera. Siamo bandisti, musicanti. Non capisci meno cazzi di musica, tranquillo. Però se qualcuno vuole andare ad ascoltare su YouTube, qualcosa c'è. Strada statale 107 bis. Quindi partiamo subito nel spiegare perché il nome strada statale 107 bis e no strada statale 106. Guarda, c'è un problema di fondo. La 107 bis non è nemmeno la 107, quella silano-cosanese che tutti quanti. La 107 bis è la vecchia strada che portava a Cosenza un tempo. C'è quella che per farla ci metteva 3-4 ore. Niente, e ne è rimasto un pezzo. Noi all'inizio, quando costruivamo il gruppo, si parla di 7 anni fa, eravamo spesso su questa strada per fare prove, per cercare gente che suonava, eccetera. Stavamo cercando il nome del gruppo, visto e considerato che senza quella strada noi non ci saremmo stati, abbiamo deciso di affidare anche a lei una parte in questa triste e articolata storia della nostra terra. Quindi anche il bisenso nel tipo di ci sarà strada da fare, no? Sì, una strada, come è stato spiegato più e più volte, piena di pidocchi, come a noi piace, una cosa sanizza. E anche noi ovviamente appoggiamo la causa di Clandestino Cid sul maiale, che è una cosa importante, però noi siamo della mozione di minoranza, quella di Peppe, ovvero sia quella che, nonostante abbia meno voce durante tutta la trasmissione, penso sia quella più radicata nel territorio, cioè effettivamente il maiale ha un'importanza nella nostra catena alimentare. Quindi togliendo il maiale penso si destinerebbe all'estinzione la categoria dei calabresi in generale, secondo me. E quindi c'è da trovare un equilibrio tra il numero di calabresi e il numero dei maiali. Cioè un tot di calabresi non può coesistere insieme ad un alto numero di maiali. Dove ci sono calabresi ci sono pochi maiali in genere. Vabbè, penso che comunque diminuendo il consumo eccessivo di quel grasso che fa malissimo, che uccide, è quella la droga dei giovani, ascoltate, la vera droga è il maiale, quindi penso che si potrebbe arrivare a un equilibrio. Questi sono falsi moralismi, Ciccio, quando ti invito a Duia e a soprassare, tu sei il primo a venirle a mangiare, vedi, sei un falso tu. Alla radio parli bene, male del coso, del grasso di maiale. e poi te lo mangi. Non sei come quel ragazzo lì che è vegetariano. Beh, veramente, non come te, Ciccio. Aspetta. Comunque, se viene meno il consumo del maiale, si estinguerebbe anche il maiale stesso, perché nessuno lo alleverebbe. Perché quella utilità, secondo te, in Calabria chi si va a allevare un maiale se poi non lo ammazza? Dai, Ciccio, spiegamelo tu. Spiegamelo tu che si tiene dentro un maiale sul divano. C'è da dire che poi bisogna inserire il nostro ragionamento del maiale dal punto di vista psicologico, nel senso che bisognerebbe fare un'analisi accurata della psicologia del maiale, perché anche la mozione di minoranza di Peppe non è proprio, cioè lui quando sostiene che per esempio per un maiale sarebbe meglio essere allevato in cattività, diciamo allargata, poco ristretta, rispetto ad essere allevato in batteria o in un allevamento violento, no? Il punto è che se tu devi prepararti alla morte, forse che ne sappiamo noi che magari un maiale depresso muore più volentieri rispetto ad un maiale felice, no? Pensiamoci bene, dovremmo vedere se i maiali d'allevamento urlano prima di arrivare al macello. Secondo me è una riflessione che tutti i dipartimenti di psicologia almeno del meridione dovrebbero affrontare prima di mettere, diciamo, il punto definitivo su questa questione. No, che alla fine, vista sotto chiave filosofica, la vita del maiale è fantastica, raga. Vive per un anno come un re, però muore in un giorno come un porco proprio. Scannato. Ma quindi è tema di spunto il maiale per la strada statale? Chiaro, infatti il pezzo che abbiamo messo in copertina, diciamo così, che ascolteremo da qui a breve, è un pezzo che prende a piene mani da quella che è la lirica del maiale, nel senso che le varie recensioni hanno definito le strida del sassofono che ci sono all'inizio, urla di fenice, insomma tutta una branca di cazzate che non si... Quello è l'urlo del maiale, cioè è chiaramente l'urlo del maiale, e ogni buon calabrese non può che essere d'accordo con me, lo ascolteranno. E quindi sì, è chiaro che noi prendiamo a piene mani dalla nostra terra, prendiamo a piene mani quindi di conseguenza da quello che ormai è diventato proprio parte integrante del nostro genoma, ovvero sia lo stinco. E niente, Peppe, ne sentiamo questa canzone. Cosa ne pensa lei di questa cosa? Della canzone del maiale. La canzone adesso l'ascolterò e potrò giudicare dopo. Andiamo con questo pezzo, poi non lo so, continuiamo dopo con l'artista oppure vediamo. Andiamo a mangiare un po' di maiale. Andiamo con questo pezzo che si chiama Morra. Storie di morte avvelenate, recitate a noi. musica, serrata in armata, presa a bando, strumenti a serra, la terra distratta li ricorderà, e nel suo vanto già le intona. Zampugne preparato, acquato al sole si farà, per contrabbasso assassinato in madre in degna età. Ritorniamo qui in studio, proseguiamo con l'intervista al nostro artista, in questo momento rappresentato da Gustavo, l'Istrada Statale 107 bis. Gustavo è voce e sassofonista del gruppo, che scommetto che lui vorrebbe suonare più spesso rispetto a cantare. Non lo so, Gustavo, tu ti piace più cantare o suonare il sassofono? Guarda, no, dico che sono tutte e due belle cose. Insomma, in generale diciamo che non è che spaccamo petri, voglio dire. Sia sassofono che canto sono due cose piacevoli, anche se penso che sassofono anche una cosa ciuangale. No, vabbè, la formazione, la diciamo. Formazione sono, dietro solitamente, quello che ci dà il corpo, la parte ritmica, c'è Vittorio alla batteria, poi c'è al basso un nuovissimo acquisto, Salvatore, il nostro Salvatore che conosciamo un po' tutti da queste parti, e dopodiché c'è la parte armonica che è retta da Tastiere, che è un ragazzo di Cotronei, Filippo si chiama. E poi c'è la chitarra di un soggetto che l'ultima volta ha cambiato le corde, diciamo quando aveva 7 anni più o meno, e ha un rapporto molto particolare con il suo strumento. E dall'altra parte poi ci sono altre due trombe, Alessandro e Pasquale, poi c'è un trombone che è detto anche Mimma Ruspa, che insomma un soggetto che mi dà spalla durante le performance live. E poi ci sono io, che sono un ciumbienzo, insomma, che fa la situazione. La maggior parte degli strumentisti a fiato, no, tutti gli strumentisti a fiato vengono da quella tradizione bandistica che fa la madre delle scuole di musica dalle nostre parti, che secondo me e secondo noi ha un ruolo importante, perché in generale c'è qualcuno, ricordo abbiamo avuto dei contatti anche con un personaggio importante, ma non voglio dire chi, della situazione giuridica, insomma un procuratore, quello che ha preso Provenzano, cosa, no? Che è di Santa Severina, e lui diceva: quelli che suonano raramente commettono delitti, l'ha detto lui. E quindi mi sento di poter dire che la banda è una di quelle cose che toglie terreno a magari altri sollazzi che sono tipici, diciamo, del nostro territorio. E in generale sono rette da persone che non si fanno i miliardi con questo, cioè le persone che stanno là ad accudire i bambini, a dar loro i rudimenti della musica, non si fanno certo ricchi con quello, cioè di sicuro non sono paragonabili ad un Muti o ad altri direttori, insomma, più prestigiosi. E quindi io, se abbiamo fatto una parentesi serietà in questa cosa, voglio dire: ragazzi, tenete alle bande, perché è una cosa importante. I bande sono una cosa importante, belle, rock, come si suona dentro i bande, proprio un suono rock. Cioè tu senti una band di paese che sono almeno una scasciare che proprio non hanno idee che stanno facendo, proprio, ma qual è rock? Punk. A band è punk, secondo me, c'è niente. Perché comunque tra una tromba, un trombone, una trombata, un bel sound, no? Sì, ma il fatto è che la band è composta da gente che effettivamente vive ogni giorno quelle che sono le dannazioni di questa vita, che sappiamo tutti quanti, e quello che smonta tutto a pito ed arriva alla banda all'UARD 2, io capito, dice: suoniamo come ci cacciaraggia, suoniamo, traduco per i non anglofoni, suoniamo che così mi tolgo la rabbia che ho accumulato durante queste 15 ore di lavoro da stamattina alle 5. E quindi questo è il ruolo anche di sfogo della cosa. E anche nella strada statale 107 bis c'è tanto di questo. Per esempio Pasquale, che è l'altro trombettista, è uno che fa giornata alla leva, insomma. Non è che... siamo gente, insomma, che ci piace la musica, ma niente di più, insomma. Avete partecipato, immagino, a tantissimi contest, no? A livello calabrese, penso quelli da piazza. Ne abbiamo fatto 2 anni fa un po', siamo stati a Sersale, a Tiriolo, con un discreto successo. Non voglio dire che li abbiamo vinti, ma li abbiamo vinti. E l'anno dopo invece ci è andata un po' diversamente. Voglio raccontare un aneddoto in particolare, che ha fatto vacillare, diciamo, il mio agnosticismo, nel senso che noi abbiamo detto: ok, alziamo il tiro, iniziamo a partecipare a quei festival semiprofessionali, quelli insomma a livello almeno meridionale. Allora, il primo festival a cui dovevamo partecipare era un festival che doveva tenersi ad Avellino. Ad Avellino l'anno scorso, a febbraio, c'è stato l'epicentro di una bufera di neve che ha spaccato in due l'Italia. Quel giorno noi eravamo ad Avellino. E in quell'occasione ho capito che, per esempio, i sangiovannesi sono meglio degli sherpa nepalesi. Nel senso che mi spiego. Mentre facevamo la strada c'erano quelli dell'ANAS, eccetera, che hanno chiuso l'autostrada e ci dicevano: ragazzi, se dovete arrivare ad Avellino, fermatevi, perché non è il caso di continuare, la strada non ha... Lui, che guidava il nostro furgone, si inseriva, e mentre vedevamo una Panda su un guardrail a sinistra, una Mercedes parcheggiata sulla cunetta a destra, lui passava al centro dicendo: chi se ti veniva, chi se malo tempo, questo è cattivo tempo, stupito del fatto che nessuno riuscisse a passare. E infatti quando siamo arrivati ad Avellino eravamo noi e gli organizzatori di Roma, e basta. E ci hanno detto: vabbè ragazzi, dovete tornare indietro. Questo è il primo episodio. Secondo episodio, sempre, ancora noi non avevamo partecipato a nessun festival, dovevamo aspettare perché quello di Avellino è stato rimandato, vabbè, partecipiamo all'Italia Wave. Italia Wave, prima selezione all'Hemingway di Catanzaro, ci chiamano praticamente 2 ore prima di partire. Ragazzi, non si può fare, perché si è bruciato l'impianto del locale. Là abbiamo iniziato a dubitare delle nostre certezze. La terza volta, ovvero sia la volta in cui si sarebbe dovuto avremmo dovuto partecipare all'Italia Wave, sempre all'Hemingway, hanno aggiustato l'impianto, eccetera, è successa una cosa di molto peggio. Nel senso, qua, diciamo, da ridere c'è poco, nel senso che c'è stato un lutto che ha colpito gli organizzatori. In quel caso Mario, che è un personaggio molto credente, che ci segue, fa il merchandising, insomma, porta magliette e cose, a quel punto si è rifiutato. Ha detto: ragazzi, voi non dovete fare festival, e se voi li fate io non ci vengo. E questa è stata una cosa particolare. Comunque poi siamo riusciti a partecipare a dei festival, siamo arrivati in Sicilia. In Sicilia abbiamo fatto il, come si chiama, a Messina, Spadafora, paese in cui fanno un festival, la finale si svolge all'Arena di Verona. E là abbiamo preso premio miglior testo, che comunque non è male, però per il resto ha un piatto palate da tutte le parti, perché logicamente resta sempre quello che dicevo prima, nel senso che comunque siamo gente che mica lo fa proprio con questa preparazione ortodossa, e quando ti scontri con i professionisti è diverso. E poi un altro festival in cui abbiamo preso belle palate, insomma, è stato sotto l'Etna. Abbiamo superato le selezioni fatte le prime selezioni, siamo arrivati, diciamo, alla finale. Siamo andati sotto l'Etna a un bel passo. Lennon Festival si chiama quest'altro festival, e là ci siamo divertiti tutto quanto, ma diciamo non siamo riusciti a portare a casa il risultato. Dopo quindi dal giro che abbiamo fatto l'anno scorso abbiamo capito che ancora ne abbiamo da lavorare. Il punto è che è nata anche un'altra riflessione, perché poi ci siamo trovati a suonare per esempio a 10 km dal nostro paese, e là non, cioè, magari ci conoscevano in Sicilia, ci conoscevano a Reggio, ci conoscevano a Cosenza, però a Belvedere Spinello, a 10, ma davvero 10 km, 15 km da Santa Severina non ci conoscevano. Siamo andati a suonare, bravissime cose, eccetera, eccetera. E sicché ho pensato una cosa, e questo ti faccio una domanda per ampliare la riflessione. Secondo te, qual è la cosa più importante? Nel senso, andare, tirare fuori una cosa che sia di grande respiro, che però è su una dimensione gigantesca, oppure essere presenti sul territorio e fare quello che fa bene al tuo territorio? Cioè, e questa è una cosa che non lo so io. Infatti era la prossima domanda che ti volevo rivolgere, il rapporto con il pubblico, diciamo, a livello territoriale proprio. Beh, secondo me, se il movimento inteso sull'ambito musicale dovrebbe espandersi a macchia d'olio, quindi pian piano a crescere soprattutto a livello territoriale. Questo di non essere conosciuto in un paese vicinissimo dal vostro, comunque, non è sicuramente un fattore positivo, però piano piano si può recuperare. No, perché quello che è chiaro è che la tua dialettica, nel senso anche a livello musicale, non c'è, nel senso che tu produci un pezzo per quello che è la tua esperienza, no? È radicato sul territorio, metti radici dove stai. È chiaro che quello che esce, se naturalmente lo fai con lo spirito di ragionare delle tue cose, delle cose del tuo territorio, e con lo spirito di parlare alla tua gente, è chiaro che viene apprezzato il tuo territorio. E infatti noi questo abbiamo visto. Nel senso, abbiamo visto che anche lo spettacolo che abbiamo costruito era una cosa piacevole, bella, cioè la gente ti canuccia e ti dice guarda, non so che è una cosa bella che sta facendo. E come genere vi catalogate in uno preciso oppure ne apprezzate tanti? Tralasciando comunque il pezzo che abbiamo ascoltato, molto Pink Floyd. Sì, abbiamo sempre avuto difficoltà nel definirci, perché questo qua è un problema. Quando tu vai a vendere qualcosa, io devo sapere che lo cacciato, nel senso chi ti ascolta, chi ti compra, deve sapere che lo compra. Non abbiamo altro modo di spiegare anche al pubblico che ci sta ascoltando cosa facciamo se non ascoltate quello che facciamo, nel senso che dal 1500 ad oggi più o meno abbiamo toccato tutto quello che c'era da toccare, se non l'elettronica, quella ci manca, ma ci stiamo lavorando. Noi abbiamo coniato un termine, un acronimo, che è utile a definire la nostra musica. Non lo so se sarà accolto con gioia dal pubblico, magari ce ne sono già tanti, quindi è sempre una rottura di palle, cioè, ah, questo è un altro genere, no, invece può magari sempre soltanto insalata. Noi quando qualcuno ci fa questa domanda e non è soddisfatto dalla prima risposta, però sia non lo sappiamo, ascolta quello che facciamo e decidilo tu, diciamo che facciamo SOG, che è S-O-G-G, acronimo di sperimentazione orchestrale per gruppi grandi, ma come insegna la pubblicità del pennello cinghiale, l'italiano è una cosa che non è grandi gruppi, ovvero sia una attestazione di qualità del gruppo, ma gruppo grande, ovvero sia un'attestazione di quantità, quasi massa. Quindi questo facciamo, nel senso siamo tanti e cerchiamo di applicare quella che è la nostra esperienza, ognuno ha la sua, all'interno della produzione. E il risultato in generale è molto variegato, cioè ogni volta che c'è qualcuno che si affeziona a quello che facciamo, al concerto dopo ci caga. Nel senso che ascolta il pezzo nuovo e dice ma questo non era quello che facevate l'altra volta. C'è chi ha lavorato in questi termini, no? C'è qualcuno che mi dice per esempio i Radiohead, no? Dice i Radiohead un album hanno fatto un genere, il secondo album era completamente differente, il terzo album completamente differente, si sono sempre messi alla prova. Noi cerchiamo di fare qualcosa in più, nel senso che noi facciamo un pezzo una cosa, un pezzo un'altra, un pezzo un'altra, un pezzo un'altra, spero che prima o poi finiranno queste cose e troveremo la nostra, la cosa più che ci fa gioire di più. Per il momento siamo instabili, molto. Quindi non è proprio vostro intento stupire, o proprio c'è il fattore stupire il pubblico? È il fatto di avere una produzione eccessivamente eclettica è dato dal metodo con cui lavoriamo, che a differenza magari di altri che seguono una linea abbastanza definita, noi lavoriamo con un processo di produzione diciamo orizzontale, nel senso che io ho un'idea, o Alessandro ha un'idea, o Giuseppe ha un'idea, o Filippo ha un'idea, la lancia nel gruppo, e quando tu lanci come se lanciassi un pezzo di carne in un branco, questo viene sbranato e cioè il risultato finale è completamente differente da quello iniziale. Il fatto che il gruppo è variegato anche dal punto di vista delle persone che ci stanno dentro, cioè c'è il maestro appunto che ha le bande, c'è quello che si guadagna da vivere andando alle olive, c'è il nulla facente universitario, c'è il conservatorista pianista classico, c'è il bassista che è un insegnante di scuole elementari, cioè è variegato. Di conseguenza ognuno ha una sua esperienza d'ascolto, che è quella che poi è fondamentale nel momento in cui vai a produrre. E quindi ogni pezzo, in base a quelle che sono le forze in campo in quel momento, cioè può essere che quel giorno in cui abbiamo definito le linee guida di quel processo, io mi avevo mangiato due uova e ciò, avevo mangiato qualcosa in più ed ero più forte, quindi le mie idee sono state quelle a valere. Invece un altro giorno ero più stanco e sono state le idee di Alessandro a prevalere. Cioè, nel senso, è da questo che poi si genera un prodotto che è molto articolato. Mi rendo conto, cioè, per esempio, quando siamo stati in Sicilia, la giuria, dopo aver apprezzato lo spirito, no, di produzione molto originale, eccetera, Massimo Luca, che è stato il produttore di Vignani all'epoca, ci disse: sì, io se facessi ancora quel lavoro vi produrrei, però qua, però la vostra musica puzza di progressive. Cioè, nel senso che ci sono stacchi, cose che non agevolano l'ascolto, questo è chiaro. Cioè, tu guardi gli occhi di quelli che vengono ad ascoltare il concerto e vedi che c'è una sensazione strana, cioè non li vedi mai rilassati o che pensano a ballare, sono sempre là con le braccia conserte a cercare di capire che cazzo sta succedendo. Cioè, c'è sempre questa dimensione un po'. Certo, poi dipende anche dal livello alcolico dell'audience, questo è chiaro. Però in generale, con audience molto sobrie come quelle che si trovano all'interno dei nostri paesi, succede questo. Cioè, non vanno via, però stanno a braccia conserte e ti guardano, sospettosi solitamente, dici: ma che cazzo vuoi fare? Quindi sostanzialmente un pensiero, il lavoro comune, e distruggete la figura del leader. Non può che essere così. Cioè, il fatto qual è? Che poi nella disposizione sul palco, la testa è quella. Nel senso che il cantante, il sassofonista, che gioca su New Year, in Trummia, su Brade, vengo additato come leader, nonostante io faccia di tutto per far capire che sono un deficiente. Però, insomma, in generale, chiunque, ma di sicuro nella produzione questa figura non c'è. Durante la performance la cosa è meno variegata, e questo io vorrei che diventasse diverso. Anche questo, c'è qualche pezzo che mi viene cantato da me, per esempio, però durante l'esecuzione live poi emergono i caratteri diversi delle persone, nel senso che quello che ha più faccia da culo si mette da davanti. Cioè, io sostanzialmente in questo gruppo canto per questo motivo, perché gli altri amano la musica, hanno gioia nel momento di produzione, gli piace suonare la musica, però a stare sul buono palco è... Cioè, capito? Devono trovare la loro dimensione. C'è Ciccio, il chitarrista, per esempio, non che sia timido, però ha la sua impostazione. Cioè, nel senso, si mette sul palco, si siede di fronte all'amplificatore, si guarda la chitarra, 2 ore, guarda la chitarra e suona plastico. Cioè, non fa una grinza. Un altro soggetto che lo definirei un soggetto catalizzatore d'attenzione, per esempio, è Domenico, quello che prima abbiamo definito Arushpa. Nell'esecuzione live Domenico è la mia spalla, in alcuni frangenti è lui che prende lo scettro del protagonismo. Di sicuro dal punto di vista della produzione non c'è questo nemmeno, per esempio, dal punto di vista dell'assicurazione dei brani. Nel senso che i brani non vengono depositati con autore, compositore, arrangiatore, peripom, peripam, quella sfilza di nomi che non finisce mai, che ci sono su tutte le produzioni, anche le più misere. Se tu vai a vedere, c'è sempre un autore, c'è sempre l'arrangiatore, c'è sempre l'esecutore. No, noi tutti i testi che abbiamo depositato, che sono quelli del primo album sostanzialmente, perché ormai manco depositiamo più, perché me l'ho rotto cazzo. Infatti voglio lanciare un appello: chi vuole rubare la nostra musica può farlo tranquillamente, cioè, tranquillo, e se riesce a farci soldi vuol dire che noi non siamo stati abbastanza bravi. Dal punto di vista di quelli che abbiamo depositato, i primi sono depositati a nome di Strada Statale 107 bis, quella della CIA, ha detto: ma non si può fare, troviamo un modo per farlo. quindi è un deposito leggero, insomma a livello legale non, nemmeno quello ci tutela sostanzialmente, però diciamo dietro le quinte non c'è un leader, sul palco è chiaro che la formazione è una formazione che c'è una persona davanti che canta, che parla, che fa, e gli altri fanno, cioè, suonano, hanno ogni tanto il loro momento, ma non riusciamo ad avere una performance organica, anche perché forse non abbiamo le competenze, le capacità di farlo. Quindi tu parlavi di qualcuno che sta a capo, ma come tutte le altre situazioni, quando pisce puzza da capo, pure nella strada statale, è così? È chiaro, è chiaro. La testa performativa della statale puzza. Oh, capita, specialmente d'estate quando giriamo, magari ci troviamo a fare viaggi tipo Reggio, poi andiamo in Sicilia, poi ritorniamo, poi suoniamo... Capita raramente di non puzzare, diciamo così. Mettiamo un pezzo però. Vai, vai. Essere o non essere? Questo è il problema. Che cos'è più nobile? Soffrire nell'animo per i sassi e i dardi scagliati dall'oltraggiosa fortuna? O impugnare le armi contro un mare di affanni e combatterli fino a farli cessare? Morire, dormire, niente di più. E con il sonno dire che poniamo fine al dolore della carne e alle mille afflizioni naturali a cui la carne è destinata. Questa è la fine che bisogna desiderare ardentemente. Morire, dormire, forse sognare. Ritorniamo qui sempre in diretta dopo aver intervistato il nostro amico Gustavo della statale 107 bis. Lo salutiamo. Baci a tutti. Ringrazio Lupino per avermi riportato sulla dimensione terrena. Volevo dare una notizia che è successa oggi a Cosenza, alla Fiera di San Giuseppe. Alcuni migranti lamentano da parecchi giorni la presenza di finanzieri in abiti borghesi che senza nessun documento di riconoscimento sequestravano la merce a questi migranti. E dopo un poco questi migranti si sono rotti le scatole, quindi hanno deciso di andare a riprendersi la merce e lì è scoppiata il caos, perché è stata una caccia all'uomo. In pratica i finanzieri hanno cerchiato 15 finanzieri hanno cerchiato un migrante, l'hanno prima malmenato e poi portato dentro. Quindi diciamo che non è una bella cosa per la città di Cosenza questa qui. Purtroppo capita anche qui queste situazioni incresciose. Ciccio. No, ma la mano dello Stato si deve far sentire. Quindi uno Stato presente è simbolo di ordine. È un ordine migliore del manganello. Dove vuoi trovarlo, Beppe? Quello di addirizzo tutto il manganello, no? Ricordando purtroppo lo Stato di polizia esiste anche qui, quindi quando qualcosa non va bene allo Stato mandano i picchiatori e sono cazzi amari per quelli che prendono le botte. Purtroppo questa povera gente viene per lavorare, per vendere, per poter mangiare, e questi qui li malmenano. Bah. E un'altra notizia che volevamo parlare alla radio è quella di Cipro. E Cipro è sull'orlo del fallimento, come l'Italia, la Spagna, il Portogallo, come... Però noi, l'Italia non si dice, perché l'Italia è una potenza e quindi non si sa che stiamo per fallire. Comunque, che è successo? L'Europa ha deciso di prendere i soldi direttamente dai depositi bancari dalle banche di Cipro. E qui è scoppiato il caos, perché la gente non vuole che gli si tocchi il conto bancario, quindi è un po' un bordello. E qua dice che in pratica i conti sopra i 500.000 euro verranno preso il 15% da questi conti, e la maggior parte di questi conti però non sono intestati a cittadini ciprioti ma a cittadini russi, che sono circa 20 miliardi su 69 miliardi delle banche cipriote sono intestate proprio ai cittadini russi, che leggevo prima su un giornale che in pratica è la malavita russa che investe su Cipro, perché lì ci sono meno controlli e quindi riciclano denaro. Quindi è un po' una situazione abbastanza ambigua. Ciccio. No, ricollegandomi alla questione banche, naturalmente il nostro pensiero va al popolo di Cipro. Ci spostiamo in Grecia, dove un esempio pratico del fallimento di un paese grazie alla BCE è nel caos generale. C'è qualcuno che pensa di riformare un po' l'ordine. Stiamo parlando dell'Alba Dorata, che ama definirsi come una formazione nazionalista antieuropea e fortemente legata alle superiorità della razza ellenica. Praticamente il progetto di Alba Dorata adesso è quello di separare gli studenti greci da quelli stranieri, praticamente una nuova protesta nel senso proprio di raggruppare questi studenti che vengono dall'estero in, a parte da quelli ellenici. Una divisione che sa di fascismo, qualcuno li definisce così, ma Alba Dorata è qualcosa che va anche oltre il fascismo, cioè abbraccia anche il nazismo in tutte le sue forme e colorazioni. Comunque, per dire che la crisi è stato il trampolino di lancio di Alba Dorata. Fanculo Alba Dorata. Ricollegandomi alla Grecia e ai nazisti filogreci, ricordiamo che è successo in una partita di calcio, in la partita era AEK, una squadra ungherese, non so che ora era, un giocatore greco che è Georgios Katidis ha segnato il gol e ha salutato i tifosi con il saluto nazista. Questo giocatore è stato in pratica escluso a vita dalla nazionale greca e l'allenatore ha provato a giustificarlo dicendo che è un ragazzo giovane che non ha idee politiche e che probabilmente ha visto questo saluto su internet e non sa nemmeno cosa significa. Quindi c'aveva forse le ascelle, non lo so, voleva alzarle perché li puzzava. Bah, purtroppo questa ideologia, questa corrente di estrema destra stanno girando un po' in tutta Europa, si stanno diffondendo e in un periodo di crisi sono storicamente hanno avuto il loro periodo maggiore. In Italia hanno preso, mi suggeriscono che hanno preso il 25%, no? Non so chi siano questo partito. Comunque andiamo con un altro pezzo. Parlando di questa, mettiamo Giorgio Gaber, I Borghesi. Quando ero piccolo non stavo mica bene, ero anche magrolino, avevo qualche allucinazione. E quando andavo a cena nel tinello con il tavolo di noce, ci sedevamo tutti e facevamo il segno della croce. Dopo un po' che li guardavo, mi si trasformavano i gesti preparati degli attori, attori consumati che dicono la battuta e ascoltano l'effetto. E io ero lì, come una comparsa, vivevo la commedia, anzi no, la farsa. E chissà perché, durante questa allucinazione, mi veniva sempre in mente una stranissima canzone. I Borghesi son tutti dei porci, più sono grassi, più sono lerci, più son lerci e più c'hanno i miei. Quando ero piccolo non stavo mica bene, ero anche molto magro, avevo sempre qualche allucinazione. E quando andavo a scuola mi ricordo di quel vecchio professore, bravissima persona che parlava in latino ore e ore. Dopo un po' che lo guardavo, mi si trasformava. Sì, la bocca si chiudeva stretta, lo sguardo si bloccava, il colore scompariva. Fermo, immobile, di pietra. Sì, tutto di pietra. E io vedevo già il suo busto davanti ad una aiuola con su scritto «Professor Malipiero, una vita per la scuola». E chissà perché, anche durante questa allucinazione, mi veniva sempre in mente una stranissima canzone. I Borghesi son tutti dei porci, più sono grassi, più sono lerci, più son lerci e più c'hanno i migliori. I Borghesi son tutti. Adesso che son grande, Ringrazio il Signore, mi è passato ogni disturbo, senza bisogno neanche del dottore. Non sono più ammalato, non capisco cosa mi abbia fatto bene. Sono anche un po' ingrassato, non ho più avuto neanche un'allucinazione. Mio figlio mi preoccupa un po', è così magro. E poi ha sempre delle strane allucinazioni. Ogni tanto viene lì, mi guarda e canta. Canta una canzone stranissima che io non ho mai sentito. I borghesi sono tutti dei porci. Più sono grassi e più sono lerci. Più sono lerci e più c'hanno i milioni. I borghesi sono tutti. I borghesi sono tutti dei porci. E noi ribadiamo il concetto. Non tutti i borghesi, magari qualcuno. Noi siamo diversi di borghesi. Noi siamo borghesi anche. Ah, bella fine. Sì. Diciamo di sì. Comunque, altre notizie dall'Europa. Adesso qualcosa di positivo. Il Check in Europe. Erasmus non finirà mai, ma addirittura mai. Pensavo fosse il microfono. Comunque, niente, il programma Erasmus, che da 25 anni coinvolge nel processo di europeizzazione oltre 230.000 studenti all'anno, dando vita al network interattivo chiamato Check-in Erasmus, andrà avanti, perché comunque ci hanno state delle voci che sarebbe finito dato i mancati fondi dall'Unione Europea. Invece il tutto va avanti. Per Peppe la gioia infinita, pace, amore e gioia infinita. Spostandoci sempre comunque sulla magica idea Europa, ci spostiamo a Berlino, dove da mercoledì 13 marzo sono state eliminate le tasse universitarie, cari ragazzi. Il governo della Baviera decide di abolire le tasse all'iscrizione agli Atenei. Certo, la Baviera è a sud della Germania, è una regione. Eh sì, ma lo status quo sta nella capitale, come a Roma, la tua Roma ladrona. Per te è ladrona Roma? No, per me non è ladrona Roma, a me personalmente non mi ha rubato mai niente. Diciamo che se la sentono un po' tutte le città e tutti i nostri governanti a livello di ladronismo. Non è solo Roma, ma ci sono anche Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Milano, Parigi, Buenos Aires, Bogotà, che cazzo ne so. Tutto il mondo è paese, i ladri li troviamo in tutti, purtroppo in tutte le amministrazioni, specialmente nella Lega, dove fanno loro tanto i buoni e poi sono i primi porci. E possiamo continuare con le nostre notizie, Ciccio. Qual è la prossima? E ci spostiamo di nuovo in Sicilia, dopo il 16 marzo che c'è stato il grande corteo contro il ponte. Adesso ricordiamo i prossimi appuntamenti, che sono il 23 marzo in Val di Susa per i Notav e il 30 marzo in Niscemi contro i MUS. Per quanto riguarda Niscemi, ci sono state 15 perquisizioni dei manifestanti. Praticamente il governo americano ha delegato la Digos italiana affinché venissero effettuati questi. Un saluto alla Digos che ci sta ascoltando, e magari pure al governo americano. Praticamente c'era la paura che questi manifestanti avessero delle armi nelle proprie abitazioni. Alla fine è stato soltanto trovato un fucile dichiarato da una persona che, come te Peppe, ama la caccia. Comunque vogliamo rassicurare il tutto, non sono non siamo sul piede di una guerra civile, ma soltanto di una protesta giusta, perché queste antenne andranno a portare delle malformazioni alla popolazione di Niscemi e dell'area circostante a questi antennoni, e comunque che vadano, cioè antenne americane militari in Italia, ancora a pagare un debito più grande della crisi che si vive. Quindi l'Italia è sempre in crisi, è sempre stata in crisi. Cioè che più che crisi siamo schiavi dell'America, degli Stati Uniti d'America, scusate, non dell'America, l'America è il continente. Gli Stati Uniti sono quella nazione, non so come si chiama, quelli là in Nord America, sotto il Canada. Salutiamo la nostra amica del Canada l'altra sera. E purtroppo gli Stati Uniti sono la più grande potenza al mondo, che per poco, ancora per poco, penso che tra qualche anno verrà soppiantata la Cina. Comunque gli Stati Uniti che vogliono, mi è caduta la pistola, sì. Gli Stati Uniti che purtroppo si sentono di comandare in ogni dove, e quindi noi, essendo, dobbiamo essere riconoscenti agli Stati Uniti che ci hanno salvato dalla seconda guerra mondiale, tutte queste storie qui che hanno rotto un pochettino le palle dopo 80 anni, 60 anni, quanti sono loro? No, sono quasi 80, 75. Hanno rotto veramente le scatole, basta Stati Uniti, basta, uscite dalle palle, andatevene dall'Italia. Ma non perché non vogliamo gli stranieri, ma perché non vogliamo i militari. Non vogliamo le basi militari qui in Italia, non vogliamo nessuna base militare, nemmeno italiana. Noi, per esempio, io prendo l'esempio del Costa Rica, che è una nazione al mondo che non ha l'esercito, ed è la nazione in cui si sta meglio. Anche il Vaticano non ha l'esercito, ciccio. Si sta bene nel Vaticano. Ah no, c'è la guardia svizzera, ha ragione. Però non sono Vaticano, sono svizzero, Gustavo. Sono estero. Sono l'esercito estero. Guarda, siccome il direttore artistico di Clandestino Cid mi ha detto che dopo c'è un pezzo, io volevo chiudere con un aneddoto riguardo gli Stati Uniti. Io ho un cugino, lui ha 12 anni e viene da Chicago. Quest'estate è arrivato a casa mia. Io cercavo di capire come gli statunitensi definissero la propria cittadinanza, no? Nel senso, io gli ho chiesto, ma voi come vi chiamate? E lui mi ha risposto, Americans. E io gli ho chiesto, no, dico statunitensi, cioè degli Stati Uniti, come lo dite? E lui ci ha pensato un po' e mi ha detto, no, noi ci chiamiamo Americans. E io gli ho chiesto, ma scusa, e allora anche uno del Brasile è Americans, è dell'America, no? E lui mi ha risposto, no, tiri sul Latins. Questa è la risposta, per farti capire la filosofia con cui vengono cresciuti gli statunitensi. Ecco, ecco qui, ecco, abbiamo un esponente dei lati. Americano, per esempio, in caso particolare degli Stati Uniti, è più comune ascoltare sempre nel popolo americano, americano, americano, americano, però si riferisce a Nord America, però al nostro caso sempre si connota come latino, come ecuadoriano, come colombiano, peruviano, cileno, dipende dalla nazionalità, però in questo caso non lo so, sempre esisteva questa differenziazione tra americano e latino, sempre. Detto ciò, secondo me, no, aspetta, perché io vorrei chiedere al direttore artistico se possiamo. No, vorrei chiudere con una bellissima notizia, che da lunedì Anonymous Italiano ha oscurato il sito di Casa Pound. Andremo a controllare, vediamo se dopo la funzione, la canzone, vedremo il risultato. Comunque, Arukulu Casa Pound, prego Peppe. Para Mayarín. aspetto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. En el mar servía arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Siamo ritornati, abbiamo fatto il test per vedere se il sito di Casa Pound Italia era tornato up, è ancora down, forse Anonymous, diciamo una piccola soddisfazione. Diciamo che sarebbe più opportuno che si eliminasse l'ideologia, in senso la gente pensasse in maniera diversa piuttosto che buttare giù un sito. Sarebbe bello cancellarlo proprio dalla... In senso la gente... No, dico... Le persone secondo me dovrebbero pensare in maniera diversa, però ognuno è libero di pensare come vuole, quindi è un po' ambiguo come discorso. No, la bella notizia è che Obama promette di collaborare con il governo di Israele, come se in questi ultimi anni l'America non ha fatto mai un cazzo per Israele. Grande Obama! Siamo felici per gli israeliani che finalmente avranno una sponda nell'Occidente, cosa che fino ad oggi non è mai successa, voglio dire. Eh sì, vabbè, Obama era il cambiamento, infatti lo viviamo. Va bene Peppe, siamo in chiusura. Ringrazio tutti i nostri ascoltatori, il nostro staff, Carmela che è rimasta fedele alla linea. Il nostro amico che è arrivato dalla Francia, prossima puntata ti vogliamo qui con noi. È timido stasera, comunque avete il suo numero di telefono, se volete potete contattarlo. Ringrazio Camillo un'altra volta, Gustavo e tutta la strada statale 107 bis, il comune di Santa Severina, i porci calabresi, anche perché c'è proprio il maiale calabrese, il maiale nero che è tipico della Calabria, però io sempre rimango, sì, salvaguardiamo il maiale come animale domestico invece di un cagnolino, no? Adottare un maialino la prossima volta. Alla fine, raga, c'era un mio amico, il papà di un mio amico, che tipo i maiali prima appena nati gli dava dei nomi, tipo l'ultima annata che ricordo aveva chiamato un maiale Silvio, un altro Brunetta. Poi alla fine, quando andava a ucciderlo, magari c'era anche la soddisfazione, non lo so. Comunque, Peppe, a te la parola. No, chiudiamo con un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Speriamo che vi siete divertiti in queste due ore di blues, di cose strane, di pazzie, di argomenti seri, pseudo-seri e cose varie. Salutiamo sempre Valterino, che ci ascolta, lui, i ragazzi del server e tutti gli altri che ci ascoltano dalle Masonette e da tutte le parti del mondo, da tutte le parti. Salutiamo pure a Maria e chiudiamo con un pezzo dei Doors, Hello I Love You, dedicato a qualcuno. Adrian, chi glielo dedichi? Adrian lo dedica a Maria. E un saluto particolare anche a Danielino. Ciao Danielino. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello.